dare visibilità all'invisibile e tanto altro, farlo con grandissimo talento, fantasia, gusto artistico e oltre. E da quando c'è il Breakfast Club che seguiamo Gender Bender, il Gender Bender è un po' più grande del Breakfast Club, lo è in tutti i sensi, oltre che di età, è arrivata la 21esima edizione, un'edizione che questi concetti ha portato con immagine concreta, e di questo parleremo con Daniele Del Pozzo, co-direttore artistico della rassegna 2023 Gender Bender 21esima edizione. Intanto ringrazio anche Mauro Meneghelli che insieme a Daniele ha portato direzione artistica per un festival che, oltre alle caratteristiche che in maniera immediata ho enunciato in precedenza, ha una valenza artistica e di talento che in maniera eterogenea tra teatro, danza, teatro, quello che può essere incontro, dibattito, esposizioni, cinema. Ho detto due volte teatro, è stato l'entusiasmo, l'ho sottolineato perché la rubrica è in scena del resto e penso bene di portare il Gender Bender a tale realtà. Parleremo anche di un aspetto, se vogliamo anche di contorno, ma che per me è importante. Sapete che tengo i programmi alle conferenze stampa di presentazione? Ecco, quello del Gender Bender è particolarmente fantasioso, ma nello stesso tempo, a proposito di concretezza, e ne parleremo con Daniele, quanto mai concreto, su carta stampata, ovviamente riciclabile, bla bla bla bla e tutto il resto, però dà l'idea del quotidiano, ed è un quotidiano che deve essere assolutamente importante, e non solo per Gender Bender, ma quello che comunica, quello che lascia, che deve rimanere. Intanto ho iniziato, e ne ho avute di sbiste, sbaglio sempre costantemente il nome del co-direttore artistico e mi scuso, Mauro Meneghelli, l'ho chiamato Davide, l'ho chiamato Andrea, l'ho chiamato un po' in tutti i modi tranne che con il suo vero nome, per cui lo ribadisco qua in diretta, Mauro Meneghelli. La svista che nell'inizio della nostra conversazione con Daniele è stato un mio entusiasmo per vedere i contenuti di questa 21esima edizione, iniziata secondo me un po' dopo, ma in realtà non è iniziata un po' dopo, anche perché l'inizio di Gender Bender solitamente era esattamente in questo periodo, per cui quello che è stata una trasposizione di una quindicina di giorni più avanti è stata dovuta a motivi che ascolteremo attraverso la voce di Daniele Del Pozzo, co-direttore artistico di Gender Bender. No, in realtà non siamo in ritardo, siamo nei tempi giusti, cioè i consueti, ecco, diciamo così. Noi siamo stati per tre edizioni costretti ad anticipare il periodo a settembre perché c'era la questione Covid, contenimento, norme di sicurezza, eccetera, e dopo tre anni noi siamo tornati, diciamo così, alle consuetudini, care vecchie abitudini. E quindi si comincia, e il filo conduttore, la frase o parola d'ordine? Ma noi abbiamo usato quest'anno invece un elemento di novità che è l'immagine. Ogni 5 anni, 4 anni di solito cambiamo l'immagine. L'anno scorso abbiamo messo una pagina bianca perché era un momento di restart e di reset. Quest'anno abbiamo affidato l'immagine a un artista che si chiama Davide Trabucco. L'idea era quella della comunità o delle impronte che lasciano gli altri nelle nostre storie e nelle nostre pratiche fisiche. Quindi l'idea è la forte interdipendenza che esiste nelle relazioni tra le persone. Quindi diciamo che questo è il tema guida. Richiede tempo, richiede spazi, e diciamo che l'edizione di quest'anno di Gender Bender è un'edizione che si nutre di tutto ciò che accaduto nei mesi precedenti al festival. L'inizio ufficialmente? Inizia ufficialmente il 31 di ottobre, giornata di Halloween, e finisce l'11 novembre, che non so bene che santo sia. No, mi informo io per questo, non ti preoccupare che ho la passione per la geografia, per cui vedremo anche come sarà la ricorrenza. La leggenda aurea di Jacopo da Varazze, troveremo. Esatto, certo. Perché il Gender Bender, come ben sapete, oltre che avere un'estensione nel tempo, ce l'ha anche nei contenuti. E quindi, per quanto riguarda l'espressione artistica, troveremo... L'espressione artistica troveremo danza, troveremo cinema, troveremo letteratura, troveremo laboratori, troveremo mostre fotografiche, troveremo tanta roba. Comunque troveremo tutto su www.genderbender.it. Alcuni protagonisti, così, fuori i nomi, non si possono certamente tutti, però insomma qualcuno che in questo momento... Allora, la prima che mi viene in mente è Nash. Nash ha origini senegalesi, si è trasferita, anzi è nata a Parigi, si è trasferita in giro per il mondo, quindi ha attraversato gli Stati Uniti, Los Angeles, la Spagna e il Giappone. E un viaggio, quello che lei racconta nel suo spettacolo, perché è anche una parte danzata ma una parte anche di storytelling, è un viaggio nel mondo attraverso ciò che il suo corpo ha incarnato delle varie pratiche di danza ereditate dalle diverse culture. Allora, non ho voluto approfondire chiaramente perché avrei dilungato la conversazione. L'11 novembre, Daniele, ma come? È San Martino, no? La famosa estate di San Martino, con il santo generoso che condivide il mantello con chi sta soffrendo il freddo. San Martino, castagne e buon vino. E la raccolta in questo caso è di grandi elementi e di un festival che alla 21esima edizione rende in maniera concreta una visibilità a ciò che purtroppo molte volte noi trascuriamo o riteniamo così in maniera frettolosa distante. Tutt'altro è quanto mai vicino, vicino a noi. Noi di Radio Città Fujiko lo proponiamo e amplifichiamo nei suoi contenuti, che non sono legati a un unica espressione. Tra l'altro, mi pare che il 31 ottobre, non vorrei adesso perché il programma va visionato con calma e con gusto, vi sarà la proiezione al cinema Lumière alle ore 22, sì, martedì 31 ottobre, di The Rocky Horror Picture Show. Grande capolavoro, tra l'altro, anche questo. E possiamo sfogliare in stile quotidiano questo dépliant, che dépliant non è, ma è un vero proprio formato molto particolare. Interessante anche raccogliere questi contenuti e guardare lo svolgimento negli anni. Se l'anno scorso una pagina bianca per ripartire, quest'anno un'immagine che deve mantenere e rimanere. E con l'incisività del Breakfast Club e soprattutto di Gender Bender, sarà la 21esima edizione che ben presto prenderà piede. Concluderà l'11 novembre, come ben sapete ho voluto sottolineare, non durante l'intervista, per non portare insomma ulteriori argomentazioni. Ho preferito, con Mauro Meneghelli, che ascolteremo tra poco, parlare di appuntamenti, luoghi, situazioni, specificità negli spettacoli. Prima però volevo farvi ascoltare un artista, un cantautore che a me piace tantissimo, è Scott Matthew. L'ho conosciuto esattamente a un Gender Bender di qualche edizione fa, in un concerto voce ukulele tenuto al Museo della Musica, e quindi questo ricordo lo condivido con voi. Scott Matthew. I've taken drugs, I've taken sides, the devil taught. piacciono questi romanticoni. È un'idea che ci portiamo dietro un po' da vari anni, in cui insomma ci serve un giornalone per inserire tutte le cose che sono in programma e che ci piace arricchire anche di molte immagini. Come diceva un po' prima anche Daniele, quest'anno l'immagine torna anche in copertina e c'è una scelta precisa di lavorare con Davide Trabucco, che è un artista visivo che peraltro ha deciso di donar, insomma, di farci regalo di una sua opera che usa la carta anche proprio come mezzo espressivo. Il taglio delle due immagini è fatto su carta e quindi si vede, e a noi questa cosa di un ritorno proprio alla materia, che è poi la materia anche dei corpi, i corpi non solo umani ma anche tutti i corpi che ci abbiamo attorno in questo mondo in cui viviamo, ci piace molto. Protagonisti ne abbiamo parlato con Mauro, parliamo anche di luoghi, se vi sono novità. Allora sì, quest'anno torniamo ad abitare tantissimi luoghi della città, in tutto 14, e ci sono anche dei luoghi che diciamo sono un po' più fuori dal centro storico più usualmente utilizzato nei festival. Ne cito due: una è la Sala Centofiori, quindi andiamo in Corticella, uno spazio bellissimo, un anfiteatro da quasi 300 persone dove faremo lo spettacolo di apertura di Lara Barsac, Ida Don't Cry Me Love, e poi andremo anche al Pilastro con il lavoro di Dewey Dell, a Domma, La Cupola. Io posso aggiungere un altro? Palazzo Bentivoglio. Palazzo Bentivoglio ospita Fabrizio Favale. Fabrizio Favale, Supplici, che con Supplici porta questi studi per danze americane. È un lavoro in cui Fabrizio Favale rimette in scena, attraverso un corpo maturo, di danzatore maturo, quello che il suo corpo ha imparato, ossia ciò che lui ha studiato della tradizione della danza postmoderna americana durante il suo soggiorno negli Stati Uniti. È un discorso interessante per noi perché riguarda il passaggio generazionale, riguarda il tema della memoria, quanto il corpo ricorda, e rispetto al cartaceo, uno dei motivi per cui continuiamo a fare un programma cartaceo su realizzato con carta da fonti sostenibili e sostenibili. No, ma fate bene a farlo. No, ma in realtà c'è il tema che noi dentro il Cassero abbiamo un centro documentazione, e il centro documentazione, che è il più grande archivio LGBT italiano, in realtà ci ha insegnato che bisogna lasciare una traccia, una memoria, anche per i posteri o per chi magari arriverà dopo di noi, e la carta resta, mentre invece il digitale chissà dove finisce. Chissà il digitale dove finisce, e saprei io dove mandarlo. The sun is stronger than the cigarettes you smoked yesterday. The king's men and all the king's horses couldn't help you find your way. Why are you chasing a lie when you know you should be chasing fame? You spend all your time checking if you have any messages on MySpace. If you can't by the park. One was full of colors, but the other was pretty dark. All of the junk you're eating was going through your fragile heart. So go from the start, rewind to the pirate, tells me what you had to say. If you hate to turn around, it won't go fast. It's best to leave it be and keep it be. Forget the books you read and all of the movies passed. Your mind is the control, it's not a machine. It's not a machine, oh, it's not a machine. It's not a machine. Tutto questo è molto gender bender. È un pop raffinatissimo, Hjaltalín dall'Islanda, un disco secondo me molto pregevole oltre che di gusto infinito. Ho chiesto a Daniele un piccolo fuori programma col quale concluderemo la nostra conversazione. Allora, una giovane amica, quando con alcuni gadget dal gender bender, magliette, shirt, portachiavi e quant'altro, segnalibri, il programma, già curiosa, lei giovanissima, 10 anni, alle mie affermazioni davanti a qualcosa di curioso, di colorato, di particolare, di originale, dicevo: tutto ciò è molto gender bender. Quindi lei, un po' stranita, ha iniziato, davanti ad aspetti comparabili alle definizioni che ho dato in precedenza, anche lei ha iniziato: ah, ma è gender bender anche questo, ah, ma è gender bender. Però è giusto che anche i giovanissimissimissimi sappiano, attraverso la voce del direttore artistico di Gender Bender, Daniele Del Pozzo, cos'è gender bender. Daniele, devi sapere che ho un'amica di 10 anni, quindi è una bambina molto giovane, e a volte vede oggetti colorati, anche gadget o shirt che porto del gender bender, no? E allo stesso modo, quando io vedo qualcosa di originale, dico: vedi, tutto ciò è molto gender bender. Anche lei ha preso questa abitudine, ogni volta che vede delle cose curiose, guarda, fa: è molto gender bender. Allora, adesso che finalmente ci vediamo, se tu, che sei direttore artistico, figura di tutto e di più per Gender Bender, in questo momento stai parlando con Anna, cosa diresti per presentarle Gender Bender? Beh, innanzitutto penso che lei, per come me l'hai raccontata, sappia meglio lei di me che cosa è gender bender, nel senso che gender bender è un immaginario, anzi è un sistema di referenze, di immagini, che testimonia una cosa, secondo me. Uno, che la questione di genere è facilmente rintracciabile, riconoscibile fin dalla più tenera età. Cioè, una persona sa esattamente cosa è da maschio, cosa è da femmina. Mi viene pensato che a 10 anni è possibile già giocarci con questo, o possibile anche capire dov'è che c'è quel gioco anche divertente e divertito nel giocare con ciò che è bizzarro, usiamo questo termine. Per cui secondo me non avrei niente da insegnare a lei, più che altro vorrei imparare io qualcosa da lei. Perché? Perché gender bender ha 20 anni e lei ne ha 10. Io ne ho 57, diciamo che fra le due, fra le tre, il futuro è lei. Quindi, se pensiamo di tenere vivo gender bender per il futuro, ma anche per le future generazioni, secondo me andrebbe ascoltata più Anna di quanto possa dire io qualcosa a lei. Io vi auguro una splendida edizione, certo che lo sarà, un buon gender bender, e a risentirci con Radio Città Fujiko. Grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie, ci vediamo al festival. A conclusione un brano, beh vabbè, non è partito, probabilmente questo è uno dei dischi maltrattati e prigioniero nel lettore CD che avevo in precedenza nell'autovettura. Ci sarà occasione, vediamo se l'altro lettore CD invece riesce meglio nella lettura e nel poter portare questo brano. Intanto grazie a Daniele, grazie a Mauro, il Gender Bender che ha estensione fino all'11 novembre, e San Martino, castagne e buon vino, per cui inizio il 31 ottobre. Seguiremo, seguite attraverso il sito del Gender Bender l'estesa programmazione. Un buon ascolto e una buona lettura dal programma che trovate, questa volta sottolineo, in cartaceo un po' ovunque. Io vi ringrazio per l'attenzione, ma non finisce qui, perché tra pochissimo continueremo con la nostra rubrica In Scena. Intanto vedo se riesco a recuperare questo brano che per me è molto molto carino, particolare. A tra poco.